Sala da tè uzbeka, tavola calda, studio e bettola dove si gioca d'azzardo e soggiorno, stanza da ricevere, una volta detta salon, osteria per il bullo di passaggio, asilo notturno per il poeta senza tetto. In una parola, cucina moscovita, 10 metri per 100 persone, bicchieri a faccette, fragore vetroso, bottiglie verdi piene, di quella, di lei, della nostra amata. Oh, quante ne abbiamo vuotate con le acciughe e i ghiozzi e poi ammucchiate in un angolo per i secoli. Che avevano aperto un locale così carino, no? Ha detto, ma che meraviglia, finalmente abbiamo c'è un bel posto. Poi sono venuta un paio di volte e ho detto, ma potrei anche venire se non disturbo, non mi dicono niente. Poi mi sono messa qui, di solito vicino alla finestra, in fondo a studiare. Poi ho chiamato il mio compagno di studi e venivamo tutti e due qua e lui si è innamorato di questo posto. Si è innamorato proprio, dice, lui di Pavia. Veniva qua apposta, io mi manca, andiamo dalle ragazze. Sì, ci mettevamo qua, poi loro si avvicinavano, chiacchieravamo, anche loro interessatissimi, anche loro mi sembra avessero dato un esame di antropologia culturale. E hanno effettivamente hanno questo modo delicato di parlare che fa breccia, no? E io mi ricordo una cosa che mi è piaciuta tantissimo, mi ricordo che a volte venivo la domenica e mi mettevo nel mio tavolino, a volte anche da sola, e tipo una volta eravamo io e tipo due signori anziani, una signora e un signore, ognuno per i fatti suoi, però tipo Chiara si metteva a chiacchierare un po' con uno, un po' con l'altro. Ed era bello perché ognuno era peculiare a modo suo, la signora molto taciturna, riservata, invece il signore molto più rogorroico, io mi facevo i fatti miei, poi ognuno ogni tanto interveniva e la cosa più bella è stata quando Chiara ha fatto un pacchettino per ognuno di noi e ci ha dato la brioche da portare a casa da mangiare alla colazione il giorno dopo, cioè, è stato bellissimo, ma perché era proprio spontaneo, cioè non era chiesto niente, non era dovuto nulla, era semplicemente un gesto umano. E onestamente, cioè questo manca, almeno io sento molto che manca nelle relazioni, e più che il bar in sé, è chi lo abita, no? E chi lo fa, lo rende così, che lo rende speciale. E quindi, non so, io appena posso, tipo, porto... cioè, ho portato i miei amici, ho portato mia sorella, così si viene a prendere un aperitivo, fare due chiacchiere, ma anche solo adesso quando avevano solo il banchetto sulla porta e passavamo io e la mia amica a prendere la tisana da sport, due chiacchiere e giro, perché è diventato un po' un riferimento nella nostra, almeno per me, nel senso, ma proprio per il calore che danno. Onestamente, sai, ci sono tanti bar, tanti caffè, tutti ognuno diverso dall'altro, però se devo scegliere questo è il mio preferito. Va bene in una zona come questa, perché è una zona che ha ancora qualcosa di quello che era una volta, cioè di un paesino. Rispetto è a Milano, ma è un po' è decentrata ed è ancora delle case appunto indipendenti o ci sono i palazzi popolari. Io vivo in uno di quelli proprio qua vicino e devo dire che per quanto sia a volte un po' duro vivere qua rispetto soprattutto a San Siro da dove vengo, non farei mai cambio. E, no, io vivevo con i miei a San Siro, poi ho preso casa da sola e l'ho presa qua. E devo dire 10 anni fa, vabbè, la situazione era leggermente diversa rispetto ad adesso, il quartiere è un po' cambiato. Mi ricordo che, vabbè, non lo vivevo molto, perché, vabbè, andavo lavoro fuori Milano, quindi tornavo a casa tardi, eccetera. Se non che poi nel 2016 mi sono iscritta di nuovo all'università e ho scelto di studiare antropologia e praticamente cosa è successo? Che allora io sono laureata in lingue, questa follia, sono laureata in lingue. Dopo 10 anni mi sentivo che il mio lavoro mi aveva portato in una strada, lavoro per una società di ingegneria mi sentivo un po' inaridita, no? Un'analfabeta di ritorno, dicevo, non è possibile, avevo un certo tipo di non so, di linguaggio, di espressione, una ricchezza di metafore, mi sentivo proprio come se la quotidianità, no, ti impoverisce. E soprattutto non solo a livello espressivo, ma proprio di pensiero. Mi sembrava che i miei pensieri fossero sempre più lineari, no? Meno articolati, sempre più concentrati sul quotidiano e il bisogno. Quindi mi sono detta, devo fare qualcosa. Mi piacerebbe riprendere a studiare. Quando avevo finito la prima laurea avevo detto, non lo farò mai più, basta. Non ce la facevo più. Ho detto, non studierò mai più, sono contentissima così. E invece mi sono stupita da sola. E quindi io non sapevo che cosa studiare, ho guardato un sacco di facoltà, ovviamente umanistiche, ho guardato psicologia, un po' di tutto, di la verità. E fino a che poi mi sono resa conto di tante cose. A me piace molto viaggiare. Da quando ho potuto avere un gruzzoletto da parte, mi organizzavo un viaggio magari un po' sportivo, sai, zaino in spalla, in gruppo, così, una volta all'anno. E so, una volta è l'India, una volta è il Nepal, una volta è la Siria, e quindi sai, vedi un sacco di cose. E quindi un po' le lingue, un po' i viaggi, un po' la curiosità, che alla fine è quella, no? Che spinge sempre. Ho detto, cos'è che raduna un po' tutto? Mi sono informata, ho detto, esiste una facoltà di antropologia. Oh mio Dio, che cosa meravigliosa che io non conoscevo. E quindi mi sono iscritta di nuovo in Bicocca. Io ho fatto la Cattolica. Sinceramente ho guardato un po' le varie università. Quella che mi piaceva di più era quella. Alla fine mi piaceva come era strutturato il programma, le materie. Volevo anche un'università statale, proprio per il mio passato di università privata. E devo dire, l'adoro. La trovo di, non lo so, io entro lì e sono felice, a me piace. È bella l'atmosfera, il calore che c'è. Perché io ho vissuto la Cattolica come molto molto fredda. Con persone, cioè anche con molto, come si possa dire, persone molto determinate negli studi, c'era poco spirito di squadra, diciamo. E invece lì mi sembrava, forse anche per l'età, non lo so, più semplice, più alla mano, i professori di un altro stampo. Io ho fatto russo, inglese e russo in Cattolica. E il russo era abbastanza in mano a CL. Non mi sono trovata, onestamente. La Bicocca è l'opposto, a me piace per quello, probabilmente. Non lo so. Poi, tra l'altro, l'avevo fatta talmente tanti anni fa che adesso mi sono ritrovata con, che so, commenti su Facebook, la pagina degli studenti su Facebook, una quantità di informazioni incredibile. E poi dicevo, ma che cosa meravigliosa farlo così tanto tempo dopo, no? È completamente diverso. Allora, per me, posso parlare soltanto per me, ha avuto una funzione di struttura, nel senso che ha dato una sorta di corpo e di sostegno a tante idee, tante sensazioni. Ha contribuito che mi formasse un pensiero distintivo su basi anche di filosofi e scienziati. Tante cose che ho visto hanno assunto senso. Ho avuto spiegazioni, ho avuto prospettive, ho avuto spunti di ricerca. Lingue è tutto un altro taglio. Onestamente devo dire che per me è stato più formativo questo secondo percorso di studi del primo, che è propedeutico, per carità, nel senso che ben venga, no? La conoscenza delle lingue e della letteratura, anzi, aiuta tantissimo. Però quanto proprio, cioè, mi ha dato proprio uno sguardo sul mondo e una struttura per guardarlo con occhi consapevoli. Cosa puoi volere di più, soprattutto basso? Io non credo, poi vabbè, mi confronto soprattutto con ingegneri e economisti. Io non penso, cioè sarebbe utile che lo facessero tutti, onestamente, perché a volte ritengo che le persone non abbiano, come posso dire, le persone che hanno capacità decisionale hanno strumenti diversi derivati dal loro studio, che però hanno un taglio molto preciso. E magari vogliamo dire un po' nel solco, no, di quanto è successo, come posso dire, la nostra società è di stampo, come dire, non vorrei usare capitalistico, lo è, volevo usare un termine più neutro. Secondo me alcune cose che ci troviamo ad affrontare oggi e le generazioni future che stanno facendo la prima volta all'università adesso dovranno affrontare sono un derivato, e secondo me ci vuole un cambiamento di mentalità, quantomeno un'integrazione con dei fattori che non sono stati considerati fino ad adesso, che sono prettamente umanistici e possono arrivare da una visione della cosa, del nostro mondo un po' al più ampio spettro. Grazie a Facebook ho scoperto che gli studenti più anziani organizzavano degli aperitivi, e quindi avevo partecipato una volta sola, sono riuscita a partecipare a questo aperitivo tra studenti di antropologia, e ho conosciuto lì il mio compagno di studi, e quello che poi è diventato il mio compagno di studi, che è un professore di filosofia per gli studenti di liceo. E niente, siccome eravamo tra i pochi che stavamo facendo, anzi eravamo solo noi due che facevamo la seconda laurea, le altre erano tutte matricole, così abbiamo iniziato a chiacchierare, no? E siamo rimasti in contatto, e lui è, vabbè, ovviamente essendo laureato in filosofia, professore di filosofia, ha una conoscenza, diciamo, strepitosa da quel punto di vista, e spesso ci confrontiamo, cioè lui è proprio per lo studio e la ricerca, no? Infatti io lo prendo in giro e dico che è l'antropologo da poltrona, io invece sono quella che tipo per col suo zainetto va, no? E dorme per terra e parla con la gente. Per cui sì, capisco, effettivamente c'è un discostamento notevole, nel senso che si perde proprio il contatto, ma se non vai sul campo sta nelle cose dell'uomo, no? Dimenticarsene e soprassedere. Devi tener conto che io sono donna, quindi non tutti gli spazi sono aperti alle donne. Per esempio nel Medio Oriente ci sono bellissimi caffè in cui puoi prendere il tè alla menta o chiacchierare, ma le donne non lo fanno. E quindi questo è off limits tendenzialmente. Diciamo che noi come viaggiatori dall'estero siamo fortunati, nel senso che possiamo farlo. Quindi, non so, mi viene in mente tipo l'ultimo viaggio che ho fatto era in Marocco e abbiamo visto il tramonto nella piazza principale di Marrakech, che è nota, no, per il suo trasformarsi dal giorno alla notte, perché si aprono proprio i banchetti con vari tipi di cucina locale, con tutti i vari fumi, spariscono, che so, gli incantatori di serpenti del giorno e si inizia l'ora della cena, c'è proprio una vera e propria trasformazione, no? Quindi, ed è quello, ho avuto la fortuna di vederlo, ed è incantevole, sì, è un bel ricordo. Poi sai, anche viaggiando a volte sei sempre di corsa, e quindi una delle cose che mi sono riproposta è di viaggiare in modo diverso, quando ci sarà ancora la possibilità, in un modo più lento, magari organizzato da me, non in gruppo, magari con un gruppo piccolo, in modo da poter avere anche l'occasione di sedermi e chiacchierare con qualcuno. Perché poi effettivamente sono queste le cose che ti rimangono. No, davvero, ti lasciano un'impressione più duratura magari dell'aver visto un determinato, non so, oggetto storico di un monumento. ti ricordi più facilmente come ti sei sentito a parlare con il nonno nepalese seduto sulla sua panchina fuori da casa sua, senza capirsi ovviamente. Cioè, durante il regime sovietico molti poeti, letterati, diciamo, dissidenti si ritrovavano nelle cucine private, non c'era possibilità di ritrovarsi in luoghi pubblici, cioè, la vita pubblica era controllatissima, per cui c'era soltanto lo spazio privato dove poter condividere idee in maniera libera, e queste persone si ritrovavano nelle cucine, ciclicamente ognuno metteva la sua e lì venivano scritte poesie, venivano dibattuti i grandi temi della vita, venivano scambiate notizie su chi era scomparso e chi invece rimaneva. E devo dire che anche quello è uno spazio molto umano e molto commovente, no? Ed è una cosa che ho studiato, diciamo, nel corso di letteratura russa, e mi è sempre rimasto impresso, forse proprio come contrapposto, no? Alla vita pubblica, che a volte diamo per scontata la possibilità di fare, no? La possibilità di parlare, e forse adesso, oggi, ci rendiamo conto quanto non sia invece scontato potersi muovere o poter condividere con qualcuno il tuo pensiero, se non altro non per regime politico ma proprio come possibilità fisica. E ho sempre trovato che fosse una soluzione e un'idea bellissima, anche perché la cucina è il mio luogo preferito della casa, no? La poetica della cucina mi è sempre sembrata qualcosa di meravigliosamente familiare e ricco di idee.